Isole, ascoltatemi in silenzio. I popoli riacquistino forza, s'avanzino e parlino. Aduniamoci insieme a giudizio. Chi ha suscitato dall'Oriente colui che chiama la vittoria ad ogni passo? Chi davanti a lui pone le nazioni e sottomette i re? La sua spada li riduce in polvere ed il suo arco li disperde come stoppia. Li insegue, s'avanza con sicurezza, sfiorando appena la strada con i suoi piedi. Chi ha operato e compiuto ciò? Colui che dall'inizio chiama le generazioni. Io, il Signore, sono il primo e sarò ugualmente con gli ultimi. Le isole lo vedono e sono prese da timore. Tremano le estremità della terra, si avvicinano, arrivano. Ognuno aiuta il suo compagno e dice all'altro: coraggio. L'artigiano incoraggia l'orafo. Chi leviga con il martello incoraggia chi batte l'incudine, dicendo della saldatura: va bene, e la rinforza con chiodi perché non si muova. Ma tu, Israele, mio servo, Giacobbe, te ho scelto, discendenza di Abramo, mio amico, ti ho preso dall'estremità della terra, ti ho chiamato dai suoi confini e ti dissi: tu sei il mio servo, ti ho scelto, non ti ho rigettato. Non temere, poiché io sono con te. Non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Ti do vigore, ti aiuto, ti sostengo con la mia destra vittoriosa. Ecco, saranno coperti di vergogna e confusione tutti quelli che infuriarono contro di te. Saranno ridotti a un nulla e periranno gli uomini che ti facevano querela. Tu li ricercherai, ma non troverai gli uomini che ti muovevano guerra. Sì, io sono il Signore, tuo Dio, che ti prende per la destra, che ti dice: non temere, io ti vengo in aiuto. Non temere, verme di Giacobbe, larva di Israele. Io ti aiuto, oracolo del Signore. Il tuo Redentore è il Santo di Israele. Ecco, ho fatto di te una trebbia nuova, munita di doppi denti. Tu trebbierai i monti, li stritolerai e renderai le colline come la pula. Li ventilerai, il vento li porterà via e l'uragano li disperderà. Tu invece ti rallegrerai nel Signore, ti glorierai nel Santo di Israele. I miseri ed i poveri cercano acqua e non c'è. La loro lingua è inaridita per la sete. Io, il Signore, li esaudirò. Io, Dio di Israele, non li abbandonerò. Sui colli brulli farò scaturire torrenti e sorgenti in mezzo alle valli. Renderò il deserto un lago d'acqua e la terra arida una fontana. Nel deserto pianterò il cedro, l'acacia, il mirto e l'olivo. Nella steppa metterò il cipresso, l'olmo e l'abete. Perché vedano e riconoscano, facciano attenzione e comprendano tutti che la mano del Signore ha compiuto questo e il Santo di Israele l'ha creato. Presentate la vostra difesa, dice il Signore. Adducete i vostri argomenti, dice il re di Giacobbe. S'avanzino e annunzino quello che accadrà. Le cose antiche, quali erano? Annunciatele e noi presteremo attenzione. oppure fateci udire le cose future, perché ne conosciamo il compimento. Annunciate ciò che avverrà in avvenire, e noi sapremo che siete dei. Sì, fate del bene o del male, e noi lo esamineremo e stupiremo insieme. Ecco, voi siete un nulla, e la vostra opera è niente. È in abominazione chi vi sceglie. Ho suscitato dal nord ed è venuto. Dal sollevante l'ho chiamato per nome. Calpesterà i principi come Creta e come il vasaio calca l'argilla. Chi l'ha annunciato dall'inizio perché noi lo sapessimo da molto tempo, perché potessimo dire è giusto? Ma non c'è nessuno che abbia annunciato, nessuno che abbia fatto intendere, nessuno che abbia udito le vostre parole. Io per primo l'ho annunciato a Sion, e da Gerusalemme ho dato un messaggero. Guardai, non c'era nessuno. Tra essi nessuno che sapesse dare un consiglio, che potessi interrogare e per avere una risposta. Ecco, tutti sono un nulla, un niente le loro opere, vento e vuoto i loro simulacri.